5D. Ascolta e rispondi. Mi scrivi o mi telefoni? Ti telefono. Mi mandi un'email o mi spedisci un SMS? Ti spedisco un SMS. Mi stai raccontando una bugia o mi stai dicendo la verità? Ti sto dicendo la verità. Mi dai l'auto o mi presti la moto? Ti presto la moto. Mi stai chiedendo un favore o mi stai facendo una domanda? Ti sto facendo una domanda. Mi metti in discussione o mi credi? Ti credo. Mi disobbedisci o mi obbedisci? Ti obbedisco.